Effetto Mondo. Well, I'm not going to comment about anything that has to do with the president, because then that becomes a soundbite, which is not helpful to what I really want to do, is to stop infections from spreading throughout the United States and the world. E allora, Giulia, questa era la voce anche oggi di... Di Anthony Fauci, che se già prima era il mio idolo, adesso lo è ancora. Perché? Di più. Perché? Cosa ha fatto? Intervista di 15-16 minuti alla Sky News, sì, la britannica, dove gli hanno chiesto di tutto, naturalmente anche il suo parere su questa accelerazione che ha avuto l'approvazione del vaccino nel Regno Unito. E poi gli hanno chiesto anche, ma è quel presidente Trump che ruolo ha avuto, insomma, e volevano ovviamente stuzzicarlo, e lui ha risposto con una calma esemplare: io non voglio parlare del presidente, perché poi diventa un soundbite, cioè un pezzettino di una lunga intervista che viene poi ritrasmesso e poco compreso. A me l'unica cosa che interessa veramente è tenere sotto controllo questa pandemia negli Stati Uniti e nel mondo, visto poi i dati americani che sono impressionanti, a maggior ragione. Tra l'altro poi nella stessa intervista, che viene ripresa oggi da moltissimi giornali, gli viene anche chiesto ma collaborerà con l'amministrazione Biden, e tra l'altro si è saputo che ufficialmente, in modo trasparente, Joe Biden ha già preso contatto con Anthony Fauci, che resterà al suo posto al National Institute of Health, e poi comunque, se non altro, farà una transizione per quanto riguarda la task force, di cui non era il capo è il vicepresidente uscente Pence. Mike Pence, ma ovviamente sapeva tante cose, le sta già trasmettendo al team entrante di Biden, che gli ha anche chiesto comunque di restare come consulente. Quindi questo era Anthony Fauci, e parliamo di lui anche perché poi, come vi dicevo, sui giornali americani naturalmente ci sono questi dati impressionanti. C'è la prima pagina del New York Times che fa vedere la curva, e se qui noi le curve che abbiamo noi in questo momento in Italia rassicurano un po' per quanto riguarda non i decessi naturalmente, ma altri indicatori, negli Stati Uniti purtroppo è il contrario, tant'è che il New York Times di spalla mette che di nuovo la California, ne abbiamo parlato ieri, è a rischio lockdown. E tra l'altro chiederà, Joe Biden, a proposito di questo, ha detto che la sua prima dichiarazione ufficiale sul Covid sarà a tutti una preghiera, perché sappiamo che non è concepibile un mandato di obbligatorietà a tutti gli americani di tenere dal 20 gennaio in poi per 100 giorni tutti la mascherina. E però il Wall Street Journal, ed è significativo, in prima pagina ha una foto di nuovo impressionante, proprio una foto che sembra quello che possiamo immaginare è l'inferno, perché la California brucia di nuovo, e quindi la California è stretta tra queste due emergenze. E ripeto, è l'apertura del Wall Street Journal, la California naturalmente lo stato della tecnologia, uno degli stati più popolosi eccetera, tra l'emergenza Covid e di nuovo un'emergenza incendio. Curiosità mia, di chi ignora in questo momento che temperature ci sono in California, perché adesso naturalmente è inverno anche lì, siamo nell'emisfero nord, quindi sì, è inverno, siamo un po' più a sud forse. Però la California comunque, tranne la zona di San Francisco, sì, che è un po' come se fosse sempre primavera, sì, lì in realtà nella California del sud è molto caldo, un po' come se fosse estate qui da noi. Comunque il tema è appunto che negli Stati Uniti, questa è l'apertura del Wall Street Journal, c'è un record di morti e di persone in ICUs, che sta per Intensive Care Units, cioè in terapia intensiva. Allora, so che ci vuoi far ascoltare ancora qualcosa, sì, per chiudere la parte americana. Questa forse è proprio la voce di Biden, che ieri insieme a Kamala Harris ha dato la sua prima intervista, un'ora e mezza, a Jake Tapper della CNN. Anche qui veramente vi consiglio, tra l'altro parlano molto lentamente, di sentirla tutta, lezione di giornalismo per noi, ma anche lezione di informazione per chi sia interessato, e forse dovremmo esserle tutti, alle cose americane. Jake Tapper è un giornalista serissimo, e ieri, siccome ho sentito fare un'intervista al nostro ministro della salute, l'ultima domanda, scusi se le faccio una domanda scomoda, ecco, non è questo, cioè non ci sono domande scomode. Jake Tapper gli ha chiesto di tutto, lo ha grilled, come si dice negli Stati Uniti, l'ha messo su una griglia, dicendogli anche: lei è il più anziano presidente che abbiamo mai avuto negli Stati Uniti, ha 78 anni, si vaccinerà, ma con questo tono. E qui però Joe Biden parla appunto dell'emergenza Covid, ma ripeto, hanno parlato di tutto, dal Ministero della Giustizia all'istruzione, è un'intervista bellissima. I'd be happy to do that. When Dr. Fauci says we have a vaccine that is safe, that's the moment in which I will stand before the public and see that, look. dice, nel momento in cui il dottor Fauci dirà il vaccino, di nuovo fiducia a Fauci che il vaccino è sicuro, io me lo farò e lo farò in pubblico, perché il tema, lo sappiamo, è anche che tre ex vicepresidenti, Bill Clinton, Barack Obama e George Bush, hanno già dato la loro disponibilità a farsi vaccinare, ripresi da una telecamera in diretta per far capire che il vaccino, se loro lo fanno, poi chi vuole ascoltare, sì, sì, come dicevi poi, tu, sì, chi vuole ascoltare molti, ascolta. Chi... Molti pensano che chi parla a favore dei vaccini, poi in segreto in realtà non si non fa si... il vaccino perché teme qualcosa che non vuol dire in pubblico. Io l'ho già detto, io ho fatto il vaccino anti-influenzale quest'anno, l'avevo fatto anche l'anno scorso, li faccio tutti i vaccini, i miei figli li hanno fatti tutti, quindi diciamolo, se serve a qualcosa. Per carità, è come, no, l'origine della parola farmaco viene dal greco veleno, quindi ogni farmaco creato... Benedetti questi veleni che ci aiutano a guarire dalle malattie, certo, per esempio. Ogni medicina è benvenuta e sacrosanta. Piccola curiosità che mi ha fatto molto sorridere, un quotidiano scozzese che mette in prima pagina la storia, The Journal, di questa signora di 95 anni, che naturalmente si chiama Winnie, sarebbe in super priorità per avere il vaccino, e dice, sì, se me lo dovrò fare lo farò, però io preferirei che lo faceste ai giovani, i giovani dovrebbero avere la priorità. Che carina, davvero, questa, sì, cos'è, sì, la prima, sì, pagina? Prima pagina di questo giornale di scozzese che si chiama The Journal, e lei, insomma, è una storia talmente bella che le hanno dato, appunto, la prima, una prima pagina. Poi anche lì c'è il tema dei tire, che è quel loro sistema di zone, ovviamente anche lì, qui addirittura un sondaggio dice che il 72% degli scozzesi pensano di essere nella zona sbagliata, ovviamente vorrebbero avere meno restrizioni, se vi suona familiare. Abbastanza, abbastanza. Allora, che altro? Già che siamo lì, vedo che il Guardian davanti. Sì, il Guardian, ovviamente, visto che si sta parlando, l'abbiamo detto, il vaccino che arriverà per primo, sì, negli Stati Uniti è quello con più difficoltà logistiche, e quindi l'NHS, NHS staff, quindi l'equivalente del sistema sanitario nazionale, sì, dice, abbiamo saputo che non avremo la priorità assoluta come lavoratori della sanità, e quindi naturalmente questo non ha fatto molto piacere, perché i primi in assoluto saranno i seniors, ma ricordiamo il primo stock di vaccini per il Regno Unito è comunque abbastanza limitato, e comunque la preoccupazione è che la logistica, perché va bene coinvolgere i militari, va bene coinvolgere magari i privati, come abbiamo visto sta facendo la Cina con Alibaba, però la logistica, la distribuzione, l'organizzazione dei centri vaccini, secondo me la stanno facendo solo in Germania a livelli veramente da, appunto, super organizzazione, no? Sappiamo, ci sono già i centri, i tempi che avranno le persone per avere il jab, l'iniezione, quindi ci vuole un'organizzazione teutonica. Ecco, l'NHS teme di non essere pronta. Però la Gran Bretagna si sta muovendo tantissimo su questo. Io trovo che ci sia una linea abbastanza chiara, cioè abbassare il più possibile le restrizioni. Sappiamo che gli inglesi sono allergici a queste limitazioni della libertà, però muoversi tanto sul fronte del controllo, tantissimi tamponi. Poi, certo, poi la sanità britannica non mi esprimo perché non la conosco, però si stanno dando da fare. Johnson ha cambiato molto. Sì, naturalmente ci sono un po' di polemiche, perché i quotidiani più vicini a Johnson già da quei giorni danno questa approvazione rapida e il record di essere il primo paese che lo distribuirà, ovviamente danno credito a Boris Johnson. Ieri il suo ministro della salute Hancock è andato in Parlamento a dire, ecco, vedete quanto bello è la Brexit, perché così l'abbiamo potuto approvare. Si è peccato, dimenticato, vabbè, di dire che la ricerca, 500 milioni di euro per la ricerca che ha portato Pfizer, BioNTech a arrivare a questo vaccino, vengono dall'Unione Europea. Quindi è sempre quel populismo che va bene per gli slogan, però bisognerebbe poi che ci fosse sempre qualcuno a ricordargli che non è proprio tutto così semplice da spiegare. Abbiamo ancora qualche secondo prima di chiudere, sì, forse un altro titolo. Se vuoi, ecco, la copertina dell'Economist che è Making Coal History, cioè che il carbone diventerà passato, sarà il passato, questa è la traduzione in italiano, c'è un pezzettino di carbone grezzo sotto una teca, perché Boris Johnson, del resto ne avevi parlato anche tu, questa scelta di entro il 2030 di non permettere più l'immatricolazione di macchine che non siano elettriche, continua su questa strada, ovviamente anticipando i tempi invece più, diciamo, ragionevoli che sta imponendo, che vorrebbe imporre la Ursula von der Leyen con la Commissione Europea, una svolta verde che vuol dire anche abbandono completo del carbone entro il 2030. E ovviamente anche qui il proclama fatto nel 2020 è una cosa, andare a vedere se poi nel 2030 sarà veramente successo è un'altra. Staremo a vedere. Grazie Giulia, è tutto per la puntata di oggi, con Pietro Lacorte in regia, Lorenzo Nespoli in assistenza in diretta, Jacopo De Franchi in redazione. Noi ci risentiamo tra poco per l'aggiornamento. Ciao, buona giornata e buon fine settimana da Alessio Maurizio.